Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ha superato i 2000 download il software che l'Enea ha messo a disposizione gratuitamente sul proprio sito per calcolare le prestazioni delle superfici trasparenti. Più o meno è stato pubblicato, è stato reso disponibile questo software a settembre, si chiama WindShelter e appunto lo si può scaricare gratuitamente dal sito dell'Enea previa registrazione. Rispetto ad altri software in circolazione è in grado di prendere in considerazione tutta una serie di aspetti che riguardano non solo le prestazioni in quindi la capacità di isolare dal freddo, che è la prima cosa che viene in mente, ma anche le prestazioni estive e l'effetto dei sistemi di schermatura solare, che sono un elemento molto importante e sempre più, diciamo così, apprezzato. Di tutto questo parliamo con Michele Zinzi, che è ricercatore dell'Enea, che ha curato lo sviluppo del software, e coglieremo insomma anche l'occasione per capire appunto come sono fatti i moderni infissi. Buonasera Zinzi. Buonasera a lei, buonasera. Molto rapidamente le chiedo di spiegarci intanto a chi è rivolto questo WindShelter, questo software, e poi ecco se vuole aggiungere qualcosa. Sicuramente, allora mi pare doveroso innanzitutto partire ringraziando il Ministero dello Sviluppo Economico, che con l'accordo di programma stipulato insieme all'Enea Ricerca di Sistema Elettrica ha permesso che si svolgessero tutta una serie di attività di ricerca legata all'efficientamento del sistema elettrico, incluso gli usi finali e quindi l'analisi delle prestazioni dell'involucro edilizio, che noi abbiamo approfondito attraverso lo sviluppo di questo software WindShelter, che come già lei ha brillantemente introdotto ha a che fare con l'analisi delle prestazioni termiche, solari e luminosi di sistemi trasparenti anche ad elevate prestazioni. Quindi parliamo dagli infissi di casa fino alle facciate vetrate dei grandi palazzi, per intendersi, c'è dentro di tutto. Esattamente, c'è dentro di tutto, ci si può mettere dentro di tutto fin tanto che siamo in grado di svolgere i nostri calcoli ottemperando a quella che è la normativa tecnica nazionale ed europea, quindi con tutti gli standard tecnici di riferimento. Diciamo che è un software che viene utilizzato soprattutto dai progettisti, quindi. È un software che può essere sicuramente utilizzato da progettisti, ma che si rivolge ad un'ampia categoria di utenti. Io metterei dentro anche gli operatori dell'industria e dell'artigianato, quindi chi si occupa appunto di serramenti, di creare, di realizzarli proprio, sì. Trasformazione del vetro e non ultimo direi anche il mondo della formazione ed il mondo accademico. Un'innovazione che noi riteniamo importante del nostro software è stato di coinvolgere le associazioni di categoria. Noi abbiamo inserito all'interno del software dei database che ci sono stati forniti direttamente dalle associazioni di categoria. Che tipo di dati contengono questi database? Informazioni sui materiali, per esempio? Informazioni sui materiali. Abbiamo un database relativo ad esempio agli infissi in legno, un database relativo agli infissi in alluminio, uno agli infissi in PVC o ad esempio per quanto riguarda le schermature solari abbiamo un database molto ampio che ci è stato fornito dall'associazione di riferimento, che ha incluso diverse soluzioni di schermatura che può essere interna all'edificio, esterna o in intercapedine. Ecco, senta, come dicevo in apertura, mi sembra una buona occasione per fare il punto su come funzionano però questi moderni infissi. Pensiamo, io direi, un po' alla finestra che è quella che abbiamo in casa tutti, per dare un'informazione utile a tutti. Partiamo dal doppio vetro. Intanto le chiedo, è un vetro speciale? E poi quali altri componenti fanno di un serramento, oggi un serramento ad alta efficienza? Ma lei citava il doppio vetro, ovvero il vetrocamera, e se noi immaginiamo che un vetrocamera ha una trasmittanza termica di circa 3, un vetro ad elevate prestazioni come ad esempio un vetro basso emissivo con all'interno dell'intercapedine un gas isolante come l'argon piuttosto che l'aria può arrivare a valori di circa 1, quindi riduciamo di 3 volte la trasmittanza termica, certo. E quindi miglioriamo il potere isolante della nostra vetrata. Ecco, tipicamente il sandwich è formato da 2 vetri o 3, il vetro è triplo, ma restando sul doppio vetro, da 2 vetri, uno spazio in mezzo che non deve essere né troppo largo né troppo stretto. Esattamente. E perché ci si mette dentro un gas come l'argon, che è un gas inerte, insomma, che non reagisce chimicamente? Diciamo che l'importanza dell'argon o di altri gas isolanti è quella appunto di avere una resistenza termica maggiore dell'aria. Okay. E quindi crea una barriera al trasferimento del calore maggiore di quanto non farebbe l'aria da sola, così come allo stesso modo fanno i cosiddetti filtri basso emissivi, ovvero dei depositi di tipo metallico, che riducono gli scambi radiativi tra le vetrate e quindi aumentano il potere isolante della vetrata stessa. Ecco, lei ha parlato di vetri basso emissivi, ma poi ci sono anche altri tipi di vetro, per esempio i vetri selettivi o vetri a protezione solare. Che cosa cambia? Allora, per quanto riguarda il vetro basso emissivo, è appunto un vetro con un deposito superficiale di tipo metallico, metallico con un'emissività molto più bassa. Quindi ad esempio se l'emissività del vetro è 0,84, oggi riusciamo a fare dei filtri basso emissivi che hanno valori di emissività di 0,03 o addirittura 0,01. Sono il vantaggio estremamente... è immenso, però dobbiamo spiegare che cos'è questa emissività. Stiamo facendo riferimento ai raggi infrarossi, se non sbaglio. Esattamente, no? Alla radiazione infrarossa, ovvero l'emissività è una proprietà dei materiali che indica la facilità ad assorbire e a cedere calore nell'intervallo dell'infrarosso, infrarosso. Okay. I raggi infrarossi sono dei raggi che non sono visibili all'occhio nudo, ma che trasportano calore. Quindi un vetro basso emissivo, diciamo che blocca questo passaggio dei raggi infrarossi. Invece un vetro che ha un elevato fattore di protezione solare, che caratteristica ha? Possiamo distinguere due tecnologie, quello diciamo di protezione solare genericamente detto, che è tipico di materiali ormai abbastanza obsoleti dal punto di vista dell'efficienza energetica, perché tagliano completamente la radiazione su tutto lo spettro solare, anche quella luminosa. Sono come degli occhiali scuri, tra virgolette, esattamente. Mentre i vetri selettivi sono dei vetri diciamo più intelligenti, nel senso che sono in grado di schermare la radiazione solare soltanto nella porzione dell'infrarosso vicino, mentre lasciano passare la radiazione nello spettro visibile. In pratica è un vetro che fa passare la luce ma non fa entrare il calore, quindi soprattutto sulle facciate a est e a ovest, dove il sole può entrare perpendicolarmente d'estate, è lì che andrebbero messi questi vetri. Diciamo che sicuramente è là che abbiamo il rischio maggiore di surriscaldamento. Notiamo anche che per i nostri climi anche la protezione della facciata sud ha indiscutibilmente dei benefici nell'arco della prestazione stagionale. Grazie Michele Zinzi. Ci mancherebbe, grazie a voi. Mister Kilowatt torna lunedì, parleremo di housing sociale, quindi di case popolari ma sempre ad alta efficienza energetica. Da Maurizio Melis, buon fine settimana.